Radio 24 Reportage. PAC, 50 anni e li dimostra tutti, di Angelo Miotto. Cinquant'anni di politica agricola comune, mezzo secolo che la Commissione europea sta festeggiando, come in questi giorni alla Fiera del Levante di Bari, in tutti i Paesi membri, facendo onore a quella che fu e che resta una grande intuizione: dettare regole comuni nell'interesse della qualità del cibo, delle diverse colture che contraddistinguono le terre e i paesaggi degli Stati membri, stabilire un insieme di parametri per aiutare chi produce. Nobili obiettivi che nel corso di 50 anni hanno vissuto più di una sconfitta, ma la PAC, come recita l'acronimo, la nuova politica agricola comune che dovrebbe prendere il via dal 2014, è in cerca di un nuovo modello. Proponiamo un lavoro di squadra tra cittadini, consumatori e agricoltori. La riforma dovrà affrontare diverse sfide: la sicurezza alimentare, la buona gestione delle risorse naturali, la sfida dell'equilibrio territoriale rurale nell'Unione Europea. Abbiamo deciso di mantenere i pagamenti diretti, ma sicuramente saranno mirati meglio e sicuramente indirizzati agli agricoltori che sono davvero attivi. L'Europa ha bisogno dei suoi agricoltori. Gli agricoltori hanno bisogno di un sostegno da parte delle istituzioni e la politica agricola comune europea è qui proprio per far questo. De Ciancholos, eurocommissario romeno responsabile dell'agricoltura. Apprezzato da molti, anche dalle associazioni più bellicose verso la nuova PAC e i finanziamenti che spesso hanno privilegiato l'agricoltura estensiva, Ciolos insiste sulla partecipazione a un dibattito fra cittadini e agricoltura in un'Europa che a molte latitudini vive lo spopolamento delle campagne, ma che vede ancora molti giovani affacciarsi a un settore spesso disprezzato negli ultimi decenni. Con l'attuale sistema di finanziamento previsto dalla PAC, l'80% dei contributi europei finiscono nelle tasche del 20% degli agricoltori, molti dei quali non esercitano davvero l'attività agricola o che accedono ai contributi soltanto grazie alle dimensioni grandi delle loro coltivazioni. In un paese come l'Italia, dove realtà medio-piccole sono l'ossatura del settore, il sesto censimento Istat luglio 2012 sull'agricoltura è lampante nelle cifre. Recita 1.620.844 aziende agricole e zootecniche attive in Italia, la dimensione media di 7,9 ettari di superficie agricola utilizzata. Negli ultimi 10 anni si è assistito in tutte le regioni d'Italia ad una diminuzione del numero di aziende, fenomeno questo che ha interessato prevalentemente quelle di piccola e media dimensione. In genere le PAC nascono più per le grosse aziende che non per le piccole realtà. Ottavio Rube, chioma e barba bianca, incorniciare un viso bruciato dal sole, è uno dei fondatori della cooperativa Valli Unite in Valle Ossona, in provincia di Tortona. Vino biologico è paradigma di una maniera di coltivare e vivere che fa sempre più adepti. Siamo nella vigna, in discesa. Gli scarponi scivolano lungo i filari della collina. Si dovrebbe guardare tanto alle esperienze di quella che viene definita l'agricoltura non solo biologica, ma semplicemente l'agricoltura sostenibile. Far parlare queste realtà come le nostre, ma che sono tantissime, non solo di cooperative, insomma di gente che ce l'ha fatta, che è emersa e che sta facendo economia, e che è un'economia che non dipende dalla PAC. Io lo dico spesso nella mia poca attività politica in comunità montana che sto facendo, dico guardate che cioè, il brutto di questi stragrandi finanziamenti che vanno all'agricoltura estensiva che crea un danno all'ambiente, allora bisogna avere il coraggio di tornare indietro e tornare a fare dei numeri più piccoli dal punto di vista della matematica, dal punto di vista delle entrate, del PIL, e fare una cosa che sia molto più accessibile e soprattutto ai giovani. Una migliore distribuzione del 40% del bilancio dell'Unione Europea, 55 miliardi di euro dedicati all'agricoltura, potrebbe aiutare a creare nuove opportunità per la qualità dei prodotti e della biodiversità. Ancora Ottavio Rube. tutti gli interventi che sono in agricoltura li danno in base agli ettari e non alle persone che ci lavorano sopra. Già quello dice tutto, no? Gianni Tamino, già eurodeputato, è biologo ed ha sempre appassionato ai temi delle regole per l'agricoltura. Riconosce che uno sforzo è stato fatto, ma elenca anche quali sono i nodi ancora irrisolti da affrontare nelle trattative che porteranno la nuova disciplina europea. Gli obiettivi principali sono garantire la sicurezza alimentare, far fronte ai cambiamenti climatici e in genere ai problemi ambientali. Va detto che come realizzare questi obiettivi è un po' problematico, tant'è vero che la Corte dei Conti europea ha messo in evidenza che i provvedimenti proposti, pur andando nella direzione giusta, lasciano perplessi per quanto riguarda la burocrazia, per mancanza ancora di equità. Per quanto riguarda la parte ambientale c'è un dispendio e il rischio che questo dispendio per gli agricoltori possa essere ben sostenuto da agricoltori che hanno un numero di ettari molto elevato, molto più difficile per chi ha piccole proprietà. Questo colpisce soprattutto gli italiani. Si privilegia gli aiuti sia sulla base del passato, sia sulla base della superficie agricola e non del valore del prodotto. L'Italia contribuirebbe con propri soldi nell'ambito del budget europeo in maniera molto più rilevante di quanto potrebbe avere come possibilità di aiuti all'agricoltura italiana. Le sfide principali lanciate dal commissario all'agricoltura dell'Unione, De Ciancholos, sono state sintetizzate in 7 punti. Sostenere la produzione alimentare in Europa, quindi sostegno agli agricoltori attivi e finanziamenti a chi davvero fa ricerca e innovazione. Preservare le risorse naturali, avere un nuovo strumento di gestione rispetto alla volatilità dei prezzi e dei ricavi. Mantenere il radicamento dell'agricoltura al territorio. Valorizzare la biodiversità e infine gli ultimi 2 punti. Riprendere la sfida contro l'invecchiamento delle zone rurali, quindi attenzione ai giovani, e semplificare la burocrazia della PAC. Andrea Ferranti è presidente di AIAB, Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica. Nella postfazione al saggio L'Europa e il ritorno dei contadini per i tipi di Yakabook, Ferranti scrive: «La PAC è centrale nella nostra vita, determina il paesaggio rurale, sceglie la qualità del cibo, orienta la configurazione del lavoro agricolo». Eccolo ai nostri microfoni. Che l'Unione Europea abbia una politica agricola comunitaria, quindi una politica pubblica che deve garantire la sicurezza alimentare dei cittadini, sicurezza in senso lato, è un elemento di grande valore. Poi è chiaro che oggi la politica agricola comunitaria probabilmente non sa più leggere quella che è l'evoluzione sia di quello che chiedono i cittadini europei, sia di quelli che vorrebbero gli agricoltori europei. Noi ormai abbiamo dai primi anni 90 un poi, fondamentalmente, nonostante tutte le riforme possibili e immaginabili, che noi continuiamo a dare più o meno gli stessi soldi alla stessa tipologia di agricoltori. Quindi abbiamo irrigidito in maniera straordinaria tutto il sistema agricolo europeo, decidendo che le piccole aziende dovevano morire perché non erano efficienti da un punto di vista economico. Dall'altra parte, decidendo che la materia prima dovesse costare il meno possibile per l'industria agroalimentare, e di fatto non intervenendo sulla filiera agroalimentare, lasciando totale controllo al mercato, al sistema di distribuzione. Questo sistema chiaramente è arrivato a un momento di crisi che non può essere affrontato con una politica che perpetua lo stesso modello di prima, perché poi alla fine di tutte queste 2 anni come non mai si è dialogato, si è dibattuto, però il risultato finale a cui stiamo assistendo, ahimè, è di fatto la continuazione della precedente politica, con pochissime variazioni. De Ciancholos, responsabile dell'agricoltura. Siamo in una fase in cui la proposta di legge è sul tavolo del Parlamento europeo, così come le nuove proposte sono sul tavolo del Consiglio europeo e della Commissione. Le proposte legislative, che sono la fase terminale di questo dibattito, sono ormai tutte pronte. E io desidero riattivare l'energia del dibattito pubblico e della società civile che abbiamo sperimentato in questi anni, perché per me è importante che questa politica agricola comune non abbia solo un valore dal punto di vista istituzionale, ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale. Adesso è tempo di trattative che cercheranno di riformare i punti più deboli della nuova PAC. Ce la farà il commissario a mantenere la data prevista, cioè fine 2013? Sentiamo ancora Gianni Tamino. Ma la previsione è il 1° gennaio del 2014, a me pare difficile. In genere questi tempi sono sempre orientativi. Certo, abbiamo ancora quasi un anno e mezzo, si potrebbe fare, non è che non ci sono i tempi. È ancora molto generica la proposta e soprattutto le differenze tra aree geografiche, tra posizione del Consiglio, del Parlamento e della Commissione, i rilievi fatti dalla Corte dei Conti europea, i rilievi fatti dalle associazioni ambientaliste mettono in evidenza ancora una struttura poco organizzata della proposta e troppo contraddittoria rispetto agli obiettivi. Non si può parlare di privilegiare l'ambiente e poi privilegiare soltanto le grandi aziende e pagare in rapporto a quello che può essere più la produttività che non la qualità. È pieno di burocrazia e nulla è peggio per l'agricoltura europea e italiana che incrementare la burocrazia. Questo poi diventa deleterio soprattutto per i piccoli produttori. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.